yacht sdraiati sopra i mari, sotto cieli pienissimi di stelle, con loro donne con il culo al sole e il sale sulla pelle. O forse sono molto concentrati e stanno studiando nuove strategie, nuove alleanze, o forse le mie sono solo fantasie. Ma se per caso alzano gli occhi al cielo, con un cielo come questo, come fanno a non cagarsi sotto, a non sentire freddo? Come fanno i capi della mafia a non pentirsi? Come fanno certi potenti a non convertirsi? What a love me have you said? Loro lo sanno quanto male fanno, loro lo sanno quanto è solo un uomo, e sanno bene quanta paura c'è dentro ad ogni cuore. Ma sanno bene come si arrende, come si arrende, come ci si stanca di sognare di cambiare il mondo. Ma se per caso alzano gli occhi al cielo, con un cielo come questo, come fanno a non cagarsi sotto, a non sentire freddo? Come fanno i capi della mafia a non pentirsi? Come fanno certi potenti a non convertirsi? Oh, no, no, no, no, no. Caso alzo gli occhi al cielo, a un cielo come questo, chiedo se almeno lui la sa la verità, che qui non c'è nessuno che sa chi imbroglia e chi è imbrogliato, nessuno che sa chi fa i soldi e chi è drogato. E allora alzando gli occhi al cielo, sentendosi sempre più soli, per sempre gli uomini si chiederanno.